Oggi è stato uno strano giorno, credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli, che cavolo aspettiamo a mangiare? You've got to give a little, take a little, and let your poor heart break a little. Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo appuntamento serale, a questo punto con Indovina chi viene a cena. Cambia l'orario ma non lo spirito della trasmissione, che ha sempre come ospite uno o più italiani di origine straniera. I temi del film dal quale prendiamo spunto, Indovina chi viene a cena, un film degli anni 60 in bianco e nero che raccontava la coppia mista, l'America che cambiava, restano di attualità in Italia, ma noi pensiamo che si possano superare, come a tavola superiamo certe nostre avversioni. Insomma, in cucina come nella società e nella vita i gusti cambiano. Parliamo quindi di ricette per raccontare i nuovi italiani, l'Italia che cambia. Indovinate chi è venuto a cena questa sera a Radio 24? Questa sera sono venuti in due, una coppia, una famiglia. Alessandro De Marchi, buonasera. Buonasera. E Iliana Joseph, buonasera anche a lei. Buonasera. Allora, Iliana e Alessandro sono una coppia mista. Alessandro De Marchi è l'autore di un libro, Haiti, l'innocenza violata, chi sta rubando il futuro del paese, pubblicato con Infinito Edizioni. Fa anche parte del CISV, l'organizzazione non governativa impegnata per lo sviluppo in Africa e America Latina in attività di sensibilizzazione e accoglienza di rifugiati qui in Italia. E invece Iliana è la presidente dell'associazione Haiti Italia, fondata nel 2009 da famiglie haitiane residenti in Italia. Che cosa avete cucinato per noi? Allora, io vi propongo una ricetta, un piatto tipico haitiano che si chiama il griot, ed è un piatto praticamente molto tipico che viene fatto, cucinato soprattutto nei giorni festivi e la domenica. E gli ingredienti di questo piatto, il piatto fondamentale, è il capocollo di maiale. Viene cotto solo con il sugo degli ingredienti per mezz'oretta, poi dopodiché viene fritto. Molto più semplice a farlo che a dirlo poi alla fine. Alessandro, è una ricetta, è un piatto che sua moglie le propone spesso? Sì, anche perché tutti ne siamo golosi in famiglia, per cui lo chiediamo spesso, anche se l'elaborazione richiede del tempo, è un piatto più forse domenicale, no? Da preparare quando c'è un po' di tempo a disposizione. Iliana, è un piatto che le ricorda la sua casa, la sua terra, e così lei diceva che se n'è andata una ventina d'anni fa. Circa 18 anni fa, ed è un piatto che mi tiene ancora molto legato in Haiti perché sono i ricordi proprio d'infanzia. La cucina di Haiti ha numerose analogie con le altre cucine caraibiche. Le verdure e le carni sono ampiamente utilizzate. In particolare sono usati i pomodori, i cavoli e i peperoni. E per la carne, quella di pollo, di capra, di manzo e di maiale. I piatti vengono abbondantemente insaporiti con erbe aromatiche e peperoni. Il riso con i fagioli costituisce il piatto nazionale di Haiti. Nelle zone più rurali è diffuso il mais moulu, accompagnato da sauce pois, una salsa di fagioli, ed eventualmente da pesce. Tra gli altri piatti tipici di Haiti vi sono le banane plaisées, banane fritte servite da sole come spuntino o come accompagnamento al tasso, manzo fritto, o al griot, maiale fritto. Tra gli stuzzichini celebri ci sono i patè, fagottini di pasta ripieni di carne. Il bouillon è invece un ricco stufato a base di pomodori, patate e carne, molto speziato. Il pollo viene spesso cucinato facendo marinare in succo di limone, pepe, aglio e cumino e poi bollendolo insieme a questa marinata. La salsa base della cucina haitiana è l'épi, a base di peperoni, aglio ed erbe aromatiche, usata per condire il riso con i fagioli, ma anche zuppe e stufati. Tra i dessert c'è il fresco, una sorta di gelato venduto dagli ambulanti lungo le strade, e il pain patate, un pan dolce a base di patate dolci, latte condensato e cannella. Gesa ki al Brooklyn, gesa ki al Miami. Pou ki sa Jamaïcain, toujou di se Jamaïcain. Me Haïtien a perdi, li se Haïtien. Pou ki sa, ou perdi, non se... Iliana, questa canzone, voi avete scelto l'autore di questa canzone, perché? Anzitutto perché la musica in Haiti è un altro, praticamente, è tipo un altro piatto, no? Dopo l'alimento, perché la musica noi... la sentiamo, la cantiamo sia i momenti tristi che la felicità, quindi mi ricordo praticamente tutti i legami che ho in Haiti, qualsiasi momento, sia i brutti che belli, perché dopo il piatto, dopo il mangiare, per noi la musica è il dessert, diciamo così, è fondamentale. Qui est-ce qui tout sait? Ma belle connaît qui est-ce qui descend? Après ça, vous mettez la gueule, voyez le bac, bouclez, vous la joignez, maman, café. Voi avete subito l'influsso di diverse popolazioni e forse noi la cosa che ricordiamo più recente di Haiti è questo terribile terremoto. Come ha vissuto quella tragedia? È stato comunque molto angosciante. Nel 2010, come sapete, nel 12 gennaio 2010, e dopo questa tragedia, per un paio di giorni l'isola è stata praticamente isolata. In combinazione, quel giorno parlavo con i miei genitori e all'improvviso è caduta la linea telefonica. E non è più riuscita a mettersi in collegamento subito, immagino. Da quel momento no, per quattro giorni sono stati veramente molto, molto angoscianti. Quindi lei per quattro giorni non aveva notizie dei suoi cari, se erano vivi, se erano morti? E purtroppo no. Poi dopo quattro giorni l'ho sentito, per fortuna miei, non è successo nel posto dove abito, ma comunque ho perso degli amici, ho perso delle persone conoscenti che conoscevo, e quindi è stato proprio un momento che ci ha segnato proprio nel cuore. La situazione ora qual è, Alessandro? Ma purtroppo la situazione non è senz'altro migliorata. Sicuramente c'è stata un minimo di ricostruzione, non è stata la peggiore ricostruzione possibile, ma non certo una delle migliori, perché si sono privilegiati certi settori a discapito della popolazione. Un esempio molto chiarificatore è il fatto che si sono costruiti più alberghi nuovi che infrastrutture. Questo magari nell'ottica di sostenere l'isola con del turismo, però si sono veramente fatte delle opere di lusso che saranno poi poco frequentate dai turisti, quindi immagino che ci sia molto di interesse privato in queste costruzioni. A un certo punto addirittura veniva così definita Haiti come la Repubblica delle ONG. C'è stata una polemica sulla presenza massiccia di questi cooperanti che certamente aiutavano, andavano lì per quello, ma forse avevano un po' soppiantato la struttura dei locali, anche in assenza un po' di un potere vero e proprio. È così, Iliana? Purtroppo sì, purtroppo Haiti è una dei paesi, diciamo, con più ONG rispetto praticamente. Perché dice purtroppo? Di solito siamo abituati ad associare la presenza delle ONG con gli aiuti. Dico purtroppo perché gli aiuti che comunque vengono detti non sono quelli che penso che la popolazione vorrebbe. Penso molti di questi ONG penso che sia proprio interessi privati. In più, i tipi di aiuti che danno gli ONG, secondo me, dovrebbero chiedere alla popolazione che cosa hanno bisogno, che cosa le piacerebbe. Non che arrivano gli aiuti e praticamente hanno i soldi, entrano in un paese e dicono faccio questo senza chiedere alla gente sul posto che cosa avrebbero comunque preferito. Cioè non c'è un coinvolgimento della popolazione. Alessandro. No. È vero quello che sta succedendo a Haiti, purtroppo la maggior parte delle ONG presenti non segue questo criterio che sarebbe penso quello minimo indispensabile per lavorare in questi paesi. È anche vero che ci sono tante altre ONG che lavorano bene. Il problema è che è quello tipico che succede in paesi in cui capitano delle catastrofi come il terremoto piuttosto che lo tsunami, che ci sono delle ONG di emergenza che corrono dove c'è il problema e molto spesso ci sono delle sovrapposizioni, quindi tantissime ONG che lavorano nello stesso posto e trascurano altre realtà o altri settori. E che magari fanno le stesse cose, quindi c'è una sovrapposizione di attività. E purtroppo i governi di questi paesi non sono capaci di gestire in maniera indipendente queste situazioni, e soprattutto nel caso di Haiti, dove la dipendenza dall'estero politica, economica è fortissima, ma è anche indotta, in queste situazioni succede questo. Molto spesso gli aiuti ritornano nei paesi di origine. Cry a little and let the clouds roll by a little. That's the story of, that's the glory of love. As long as Ritorniamo a parlare con Alessandro De Marchi, autore di un libro su Haiti e poi anche un volontario del CISV, e Iliana e Joseph, che ad Haiti è nata, una coppia che ha un piede in Piemonte e un piede appunto in questa isola bellissima che purtroppo è stata devastata da un terremoto qualche anno fa. Iliana, dicevamo appunto della presenza massiccia di questa cooperazione che sicuramente ha aiutato nell'emergenza, ma si è installata nel paese e certe volte con degli effetti anche così abbastanza contraddittori. C'è stato anche quel caso dei bambini haitiani subito dopo il terremoto che sono stati in fretta e furia raccolti da una ONG un po' così senza scrupoli americana, che li aveva messi in un pulmino per portarli negli Stati Uniti e farli adottare tutti. Ovviamente nell'opinione pubblica mondiale subito dopo il terremoto c'era veramente una spinta positiva di generosità nei confronti di Haiti che portava un po' tutti a cercare di difendere questi bambini, ma in realtà spesso i genitori di questi bambini esistevano, c'erano bisogno di controlli. Iliana, lei come ha vissuto quest'onda emotiva, sicuramente spinta dalla generosità, ma che forse rischiava di fare anche dei danni? Purtroppo questo caso ha creato comunque altri problemi anche in passato, perché questa situazione ha creato molta difficoltà anche nelle adozioni internazionali, perché attualmente le adozioni internazionali sono bloccate in Haiti proprio per questo caso, perché si è suscitato proprio dagli americani, da questo pulmino che praticamente avevano preso dei bambini in Haiti, trasportati a Santo Domingo per farli passare praticamente arrivando fino all'America. E questo credo che sia stato anche un problema per tutta la popolazione, perché questi bambini avevano dei genitori di altre famiglie, e non solo perché andavano praticamente portati in America dalle altre famiglie, ma anche per una questione di traffico anche di organi, per cui la preoccupazione è stata veramente grande e tuttora ancora credo che sia anche grande lo spavento. E le adozioni, come ricordava, sono bloccate. Alessandro, l'altro grande problema di cui si è sempre parlato per Haiti post-terremoto è quello del colera, no? Della diffusione improvvisa di questa epidemia. Tra l'altro poi si è scoperto che era stata portata da alcuni liquami che fuoriuscivano da un accampamento dell'ONU, dei Caschi Blu, e l'ONU che ha poi sollevato la questione dell'immunità delle nazioni Unite. È stato abbastanza increscioso come episodio. Come si è risolto? C'è ancora questo problema del colera ad Haiti? Allora, il problema non si è risolto, nel senso che proprio settimana scorsa anche a New York, di fronte al Palazzo delle Nazioni Unite, in concomitanza di un discorso del primo ministro haitiano sull'argomento, ci sono state anche delle manifestazioni popolari della diaspora, vuol dire degli haitiani che vivono a New York. E in effetti adesso Haiti punta a chiedere un risarcimento, perché le prove di questa contaminazione da parte dell'accampamento dei Caschi Blu parrebbero schiaccianti. E il problema è che appunto bisogna prevedere questo risarcimento, come verrà utilizzato, perché le vittime sono state alla fine quasi 8.000 del colera, quindi non si è trattato di una piccola epidemia, ma di una cosa veramente grave, e si spera che questo, semmai questo risarcimento verrà concesso, non sia intascato ma che sia investito nel settore sanitario, che peraltro è molto molto carente. Questo episodio del colera è stato un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso rispetto a come gli haitiani vedono la presenza delle Nazioni Unite, una presenza che è data ormai da più di 10 anni, ma che non, di cui non si capisce bene l'effettiva utilità. E poi, se oltre a questo fanno anche dei danni, oltre all'episodio del colera, ci sono anche stati episodi di violenza sessuale verso ragazze, verso ragazzi haitiani. Per fortuna in questo caso i colpevoli, che erano dei militari delle Nazioni Unite, sono stati però condannati, però questi episodi purtroppo si susseguono e non fanno altro che aumentare il malcontento della popolazione haitiana verso questa presenza, che costa tantissimo, mentre i soldi che vengono spesi per mantenere questi presidi militari possono essere magari spesi diversamente in favore della popolazione. Jwenn maman ka fè manje nan cuisine, maman gade li di ti gason ou chanje, li di mwen chanje pase se haïtien mwen. Yo te bon mwen, yo le son, yo te metem nan prison, mwen wè diaspora fi, diaspora gason, ye sa ki pap toune ya pe domi ya poisson, yo pè di konesans kakou yon prèt san religion. Diaspora n'pa respecte diaspora, si se diaspora ou ye mape vou yo balè. Come vi siete conosciuti, Alessandro? Ma ci siamo conosciuti proprio da Haiti, perché io ho iniziato a frequentare l'isola dagli anni 90, esattamente dal 1991, con delle esperienze di volontariato estive nello stesso gruppo di volontariato che io seguivo in una scuola elementare di Port-de-Paix, faceva parte Iliana, e ci siamo conosciuti in questo modo. Iliana, questi 20 anni in Italia, ti ha mai subito degli episodi di pregiudizio, di razzismo per la sua origine straniera? Allora, io sono stata insultata e trattata male da un impiegato dei trasporti pubblici 4 anni fa. Sono sicura che quella persona si è permessa di comportarsi male con me perché si sentiva superiore e pensava che non reagissi. Invece l'ho denunciato e davanti al giudice che lo ha condannato è diventato proprio piccolo piccolo. Vedere e sentire il giudice che smascherava le bugie sue e dei suoi colleghi è stato meglio della condanna. Immagino che lei ci racconti questo episodio perché è il più eclatante di tutta una serie di episodi, no? di razzismo, di pregiudizio. Per fortuna io non ho subito molto altri tanto, perché questa persona io ovviamente dopo 18 anni, anzi ho 18 anni in Italia, quindi mi è successo 4 anni fa, quindi sono praticamente passati 14 anni in Italia benissimo. E lei come vive la presenza di un ministro dell'integrazione in Italia? L'ha trovata una idea fortunata, che le è piaciuta? Mi è piaciuta tantissimo e che ci conforta tantissimo e aiuta anche comunque a darci anche speranze, ci incoraggia anche ad andare avanti, perché comunque è un esemplare per noi stranieri che vive in Italia, perché il ministro ci rappresenta e tra l'altro comunque è un ministro che ha fatto tante altre cose prima d'ora, quindi nel campo proprio del volontariato, del sostegno dell'immigrato, molto prima rispetto adesso, quindi è una persona che conosco tra l'altro tutto quello che ha fatto molto prima, e quindi proprio veramente ci conforta tantissimo ed è un incoraggiamento per tutta la popolazione, praticamente tutti l'immigrazione, gli stranieri che vivono in Italia. Kankou yon bato ki ple refije Israel chache bon dieu Tande 10 000 seke Gade tout se timoun Pe apriye Me yon pa presisite Mama rele. Alessandro, prima di dare la ricetta di sua moglie, la nostra trasmissione prende spunto da un film degli anni 60 che parla di una coppia progressista che si vede arrivare in casa la figlia, ventenne, bianca, accompagnata da un fidanzato nero. È una situazione in che un po' mette in crisi la coppia progressista. Lei, quando ha conosciuto sua moglie, l'ha portata a far conoscere ai parenti, ha vissuto una situazione simile oppure no? Ma devo dire che li ho messi un po' di fronte al fatto compiuto, perché siamo rientrati in Italia sposati, no? Per cui diciamo che ho risolto in questo modo il problema delle conoscenze. In realtà devo dire che la mia famiglia è, per fortuna, una famiglia molto, molto aperta, a suo modo anche una famiglia d'origine, una famiglia mista, perché il papà piemontese e la mamma siciliana, no? Quindi se rapportiamo questa situazione a diversi anni fa, non dico che gli immigrati che venivano qua a Torino subivano le stesse situazioni, però in certi casi effettivamente è così successo, per cui devo dire che io non ho avuto assolutamente il minimo problema, penso che mia moglie lo possa confermare, è stata subito accolta e ricevuta non solo dalla famiglia ma anche dagli amici. Griot du Porc per 4 persone. Ingredienti: 1,5 kg di capocollo di maiale, 1 spicchio d'aglio, mezza cipolla, 2 limoni o lime, 20 g di timo tritato, 20 g di prezzemolo tritato, 1 cucchiaino di concentrato di pomodoro, 0,5 cucchiaino di pepe nero, 1 peperoncino piccante, 1 dado, 1 cucchiaio di sale, olio quanto basta. Tagliare a pezzetti la carne, lavare e tagliare le verdure. Marinare la carne con gli ingredienti e il succo di 2 lime o di 2 limoni. Mettere tutto in padella e cuocere per almeno 1 ora. Poi scolare la carne, lasciarla raffreddare e friggerla in abbondante olio. Condire con riso e insalata. Oh, God, to give a little. Prima di chiudere e salutare i nostri ospiti, inauguriamo una nuova rubrica per la trasmissione del Indovina chi viene a cena nel Palinsesto Nuovo. Se siete italiani con origini straniere o stranieri in Italia, mandate una mail a me direttamente, vfurlaneto@radio24.it, con una vostra ricetta e la vostra storia. Noi la racconteremo a Indovina chi viene a cena e magari vi inviteremo come ospiti. La puntata termina qui. Io ringrazio i nostri graditissimi ospiti Alessandro De Marchi e la signora di origini haitiane Iliana Joseph. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Grazie a voi, buon appetito. Grazie a voi, arrivederci. Mi trovate anche su Twitter @valfurla, trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Buon appetito a tutti, buona serata e ricordate, a tavola come nella vita, i gusti cambiano. You've got to give a little. That's the glory of love.